nel duol absoluto. Ti ho lungi dalla mano di nel solto, tu vinci del sol, continui del sol. Vedi, ti vuole bene, vedi, ti vuole bene, ti ho lungi dalla mano. Oh, accende quella fiamma, onde pria ardea il cuore. Questa la mia vendetta, il dir sì è vero, ma sol per prova della tua costanza, il timor, la speranza, la gelosia, l'amore, mi fecero soffrir pene di morte, come or della tua sorte, e a chi t'ame e disprezza, tu stambi adorator, serpa la fede. Thank you. del sole I rai tornino ad indorar sul sangue il mondo, vedrai le nostre facce in nobil gara ed infiammarsi il petto. Tu pure del mio affetto scoprirai le finezze per comprire l'onor di questo giorno. Arcadia, scorgerà che il ciel destino che tu sia la mia sposa e mia regina. tempo ormai candiamo il tempio dove sull'are preparate il grande sacrificio si consumi e rendasi l'onor ai sommi dei qui del nostro gioir devesi il merto andiam meliso da se lieti auspici sperarmi giova per favor ben voli io cielo ogni or sereno la greggia lieta il prati ciel più ameno di più. Vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori accolti per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non v'è chi più di me gova in mirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Sì, che i gravi miei danni quanta pietà ti avesti, e mi ricordo creder non ti posso, bugiardo adorator di mia fortuna. Avian Perseo al tempio e vi si chiudo in presenza dei nomi, il vuoto, il giorno. Chiudasi, e quindi nasca l'augurio fortunato d'un amore tra noi sempre beato. Tormento di donna dal goder, più bello ti lo divento, né via tormento, né via tormento di colla dal modello. Thank you. che tardi più. Vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori accolti per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non v'è chi più di Megova in mirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Sfuggite i gravi miei danni quanta pietà ti avesti e mi ricordo creder non ti posso bugiardo adorator di mia fortuna. Abbiamo Perseo ai tempio e vi si chiudo in presenza dei nomi il vuoto il giorno chiudasi e quindi nasca l'augurio fortunato con amore tra noi sempre beato. Il mio sogno è il mio, in voi più bello il godimento, né via tormento, né via tormento vi colga dal volere. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。